Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, è domenica 7 aprile 2013, 80ª puntata di Restiamo Animali. In studio oggi per voi Camilla Lattanzi, Francesca Levi, Valentina Reggioli e Lorenzo Guadagnucci. La puntata di oggi sarà prevalentemente italiana. Per la rubrica Visti da vicino torneremo al centro di Monte Adone, vicino a Sasso Marconi, dove incontreremo come animali gli istrici. Vi daremo anche le istruzioni per prenotare una visita a questo straordinario centro di recupero per animali in difficoltà. Andremo poi a Siena, dove sabato 30 marzo si è svolta una manifestazione che doveva essere di protesta per la caccia in tana alle volpi, che però, grazie all'attivismo di tanti animalisti d'Italia e anche del resto del mondo, è stata definitivamente sospesa dalla provincia sine die. Abbiamo raccolto tante voci dalla manifestazione. Per la rubrica Perle agli umani di questa settimana, Lorenzo Guadagnucci recensisce il libro La bella, la bestia e l'umano di Anna Maria Rivera, che è anche il titolo della rubrica che la nostra amica e stimata antropologa ci regala quando accade qualcosa di significativo. La ricetta di questa settimana sono dei cookies, biscotti, cruelty free. E per le news c'è la curiosa storia del cane di strada di Atene che è stato accalappiato in quanto accusato di molestare abbaiando le parate dei funzionari della Troica, e un aggiornamento sulla situazione di Colleferro, la zona limitrofa a Roma dove si è svolto il più grande sequestro di equini nella storia d'Italia, più di 200 animali maltrattati. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Dream of escape, but a song comes onto my iPod, and I realize it's getting late. I can't take the staring and the sympathy. Oggi torniamo al centro faunistico di Monte Adone, a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, dove abbiamo registrato numerosi incontri con gli animali che vivono là. Si tratta in parte di animali selvatici, salvati, curati e quando possibile reimmessi in natura dal centro faunistico. In altri casi si tratta di animali che invece vengono lì destinati dopo sequestri disposti dalla magistratura per maltrattamenti o altre ragioni. Oggi vi raccontiamo di un breve incontro che abbiamo avuto a Monte Adone con alcune istrici asiatiche. Due istrici asiatiche sequestrate in un parco faunistico per maltrattamento. Erano tenute, praticamente era una buca di cemento, insomma uno spazio solo col cemento sotto, senza un albero, senza un filo d'erba e sotto il sole, in poche parole, con una condizione inadeguata per loro, ecco. E le denunce sono state fatte da associazioni animaliste e la forestale è intervenuta. C'erano anche altri animali e alcuni dei quali sono qua con noi. È un sequestro anche questo del quale c'è ancora il procedimento in corso, per cui è un anno che sono qua. Sono più grandi delle istrici locali. Esatto, questa è grande come l'istrice africana, per me è un'istrice africana, però i documenti dicono istrice asiatica ed è l'istrice dalla quale ha avuto origine l'istrice che è sul nostro territorio. Probabilmente ancora i romani le hanno portate in Italia, poi si sono prima naturalizzate in Sicilia, poi dalla Sicilia sono venute fino a su al nord e sono arrivate fin qua. Di cosa si nutrono questi animali? Allora, sono animali, sono roditori, loro mangiano soprattutto tutto ciò che nasce sotto, ecco perché i contadini quando piantano le patate non vorrebbero vedersi intorno un istrice, perché per loro è un fast food. Sì. Abbiamo una piccola coltivazione di patate, ci è capitato di avere a che fare con loro. Sì, sono ghiotte. Abbiamo condiviso una piccola parte del raccolto e va bene così. Si stanno leccando, sì, sono adagiate anche su una piattaforma. A quest'ora sono abitudini più serali, le istrici. Sì. Quindi alla sera sono molto attive, vengono fuori, girano durante il giorno, stanno lì nascoste e dormono. la siesta, sono sul loro ripiano di legno, sotto il tetto. Sotto, perché la tana è doppia, cioè sotto e sopra. C'è una parte chiusa e una parte aperta, in questo momento sono sul tetto, nella parte aperta, coperta all'ombra e riposano. Siamo intorno a mezzogiorno, quindi è il momento della siesta. Il centro faunistico di Monte Adone è un luogo veramente particolare, molto speciale, che è visitabile solo in determinati giorni e circostanze, proprio perché il numero di individui che vive in quel posto non consente un accesso frequente di visitatori esterni. In questo periodo è possibile prenotare le visite per i mesi di maggio e giugno. È possibile farlo esclusivamente al numero 345-429-1300. Ripeto, 345-429-1300, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Dal 3 giugno sarà possibile prenotare per le visite ammesse nei mesi di luglio e agosto, mentre per il mese di settembre sarà possibile telefonare e prenotare dal 22 di luglio. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Quest'anno è chiusa definitivamente la caccia, in tana. Ma sì, ho letto le determine. Poi ho avuto dei contatti in provincia, sì, è chiusa tutto l'anno. Questa è chiusa, però rimane in funzione sia il sistema di trappolaggio, che praticamente si può praticare per i 12 mesi, e in questo periodo utilizzare il trappolaggio può catturare di fatto una femmina gravida, oppure che ha i piccoli, verrà soppressa, e i piccoli moriranno di stenti e di inedia. Adesso, meno o meno, fino ad agosto bisogna dire no alle trappole. Sì. No, a qualunque sistema di riduzione esatto. Numerica. No, in questo momento no. Avevo una trentina d'anni e mi sono trovato dei cacciatori sotto casa che hanno sparato, io vivo in campagna, hanno sparato accanto al cancello con i bambini e tutto. Mi sono opposto, sono andato fuori e sono stato minacciato col fucile. E lì ho deciso di passare, proprio di oppormi in maniera più decisa, ecco, a questa attività. E sono diventato guardia del WWF e poi sono diventato delegato della LAC per la provincia di Siena. Arianna Gambelli! Del GAT, organizzatori di questa manifestazione. Stamattina c'è stata la determina da parte della provincia, la caccia in tana alla volpe, però ripeto, in tana è stata annullata per l'intero anno. Siamo contenti, però di fatto insomma il piano di contenimento della volpe va avanti con metodi cruenti e quindi chiaramente verranno catturati e lasceranno i cuccioli al loro destino, triste, di morte. La cosa che dà più noia è l'ipocrisia, perché i cacciatori appunto continuano a volersi far passare da quelli che tutelano la natura, ma se ami la natura la rispetti. I pedofili dicono che loro amano i bambini. Con Cristina Marcolongo di Siena, avvocato, per onestà intellettuale la provincia non dovrebbe dire il TAR ci ha dato ragione, ma dovrebbe dire il TAR ha dato torto al ricorso esatto. Che ha fatto la LAC insieme all'associazione vittime della caccia. Perché questa è la verità. Il giudizio del TAR e quindi la sentenza del TAR ha dato un parere favorevole non alle ordinanze, ma ha semplicemente respinto il ricorso per le motivazioni che erano state presentate. Il che, se ragioniamo a contrario, significa questo, che se il ricorso, forse, ipotizzo, fosse stato presentato con motivazioni diverse, chi può dirlo, forse la sentenza sarebbe stata diversa. Questo è bene che venga precisato. La sentenza del TAR si è pronunciata solo ed esclusivamente sul ricorso, non sulla bontà delle ordinanze della provincia. Abito vicino al bosco, sicché lo so perfettamente che le volpi non ce ne so così tante come dicono, quindi secondo me è proprio una cavolata questa cosa di ammazzarle, specialmente di ammazzare i cuccioli, insomma. Ecco. Quindi secondo te perché lo fanno? per far piacere ai cacciatori, per prolungare il periodo di caccia. Sono qui per ribadire il no a tutti i tipi di caccia. Nella fattispecie alla caccia intana mi sembra una delle forme più crudeli della caccia, insomma. Mi sembra che sia l'antitesi della civiltà. Credo che l'unico, uno perlomeno dei pochi, metodi per risanare l'ecosistema sia l'abolizione della caccia e soprattutto dei cacciatori, perché sono loro, specialmente per quanto riguarda gli ungulati e nella fattispecie i cinghiali, che li buttano nei territori per ripopolarli, tant'è vero che in tantissimi territori si trovano tipi di ungulati non autoctoni. I cinghiali, per esempio, sembra che siano stati portati dall'Ungheria e da altri paesi dell'est giusto per soddisfare il divertimento, fra virgolette, se si può chiamare così, dei cacciatori stessi. Qui c'è un turismo di grande elite, di grande sensibilità, e non mi sembra corretto che per un bacino elettorale di cacciatori si distrugga l'immagine di una città. E questo turismo ha tre tappe di base, che sono Venezia, Firenze, Roma. Poi c'è una giornata che coprono in alternativa o con Pisa o con Siena. Ho l'assoluta certezza che i turisti inglesi andranno tutti quanti a Pisa piuttosto che a Siena. Siamo d'accordo, le specie dannose e in esubero vanno prelevate in maniera selettiva. Preleviamo i cacciatori senesi e portiamoli da qualche altra parte. Attualmente le navicelli satellitari si raggiungono in 6 ore. Vadano là, per favore, ce liberino il pianeta dalla loro presenza nefasta, e nefasta vuol dire di morte. Mi chiamo Dazze, vengo dalla Lettonia. Su internet abbiamo lanciato 2 petizioni online, firmata attualmente da più di 8.000 persone, e abbiamo lanciato anche una petizione in inglese su quello che stava per succedere qui a Siena. E in più tantissime persone non solo hanno firmato la petizione, ma anche hanno mandato una lettera loro in inglese o nella propria lingua madre alla provincia di Siena per dire il loro no alla caccia alla volpe. In particolare mi riferisco ad una ragazza danese che non solo ha creato una bellissima lettera scritta in un inglese di quelli tosti ma chiari, ma ha mandato questa lettera anche a tutti i consolati italiani all'estero, qui in Europa, e ora piano piano vedo che i consolati o inoltrano direttamente la lettera di questa ragazza alla provincia di Siena, oppure scrivono a loro volta una lettera per esprimere la loro protesta. Pezzi di merda! Pezzi di merda! What do you think about the hunting foxes? Personally, I don't like it, because foxes have never hurt anyone. And all they were doing is trying to live peacefully, and yet we still hunt them. Thank you. What's your name? Mr. Luke Dennis. Luca. Luca. Yeah. Grazie, Luca. Grazie. Sono Tiziana, di Roma Nord antispecista. Veniamo dalla provincia di Roma. Quindi voi vi siete mossi dalla provincia di Roma per venire a Siena? Assolutamente sì. Noi siamo un gruppo informale di antispeciste, siamo in 4 attiviste e ci muoviamo nella provincia di Roma facendo tavoli informativi sulla scelta vegan prevalentemente e tutto ciò che consegue naturalmente. Nessun fucile, nessuna traccia, basta, basta con la caccia! Silvio Raimondo e sono il presidente della regione toscana della Lega Abolizione per la Caccia. L'ordinanza non ha nulla a che vedere con degli abbattimenti o dei controlli, come dice la provincia, selettivi. Oggi hanno delle armi che sono potentissime, degli strumenti che non hanno nulla a che vedere con la caccia di una volta. Cioè, che differenza c'è? Fammi un esempio. Un esempio che un fucile tira fino a 3 km di distanza, una carabina. Quelli di una volta tiravano a 50-100 metri, quindi non danno scampo all'animale. Un fucile tira 6, 8, 10, 20 colpi, una volta ne tirava 2. Ma è regolamentare questo? Sì, è regolamentare. Denunce penali ne viene fatte tantissime ogni anno perché vengono, tra parentesi, alterate le armi. Venivo da una famiglia di cacciatori, a 18 anni mi hanno regalato 3 fucili e mi hanno fatto prendere il porto d'armi. Il primo animale che ho visto morto mi si è ghiacciato il sangue. E qui ho detto mai più, in vita mia andrò o comunque toccherò un fucile. Quindi avevo 18 anni, ho cominciato a fare la guardia ambientale, la faccio anche ad oggi. Quindi sei guardia ambientale? Sono guardia ambientale, venatoria e zoofila. E ovviamente sono responsabile appunto di tutte le guardie della Toscana. Bracconiere, cacciatore, stesso merda, stesso odore! Lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Che dà il titolo a una delle nostre rubriche. Si tratta di La Bella, la Bestia e l'Umano, di Anna Maria Rivera, l'antropologa e attivista che di questa rubrica è appunto la titolare. Pubblicato dall'editore EDS nel 2010, La Bella, la Bestia e l'Umano ha nel sottotitolo la sua piena esplicazione. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo. Possiamo dire che questo saggio di Anna Maria Rivera è fra i pochi che abbiano affrontato la tematica della discriminazione e il suo peso nella cultura corrente, mettendo in evidenza le relazioni che uniscono l'esclusione del genere femminile con il razzismo contro stranieri e minoranze e, ecco il tassello sempre assente nelle analisi correnti, con la sorte inflitta nella nostra società agli animali non umani. Rivera è una studiosa rigorosa, con una solida formazione teorica, e in questo saggio, che ha un intento divulgativo, fa ampio riferimento alla letteratura sociologica, filosofica e antropologica. Ne deriva un libro molto leggibile e mai banale, capace soprattutto di misurare la tenuta dei concetti e dell'analisi con i dati di realtà offerti dalla vita concreta. Non mancano cioè le esemplificazioni di ciò che Rivera intende per intreccio fra sessismo, razzismo e specismo attraverso casi e fattispecie ripresi dall'attualità politica e di cronaca. Rivera definisce allora il neorazzismo in Italia come un sistema, spesso subdolo, di diseguaglianze giuridiche, economiche e sociali, di solito caratterizzato da forti scarti di potere fra i gruppi sociali coinvolti. Questo elemento, gli scarti di potere, è un aspetto chiave di tutte le forme di discriminazione, compresa quello verso gli animali, ma viene spesso dimenticata o messa in secondo piano quando si parla di razzismo, poiché molti preferiscono circoscrivere questa sgradevole ma forte dimensione della nostra vita pubblica in un recinto, in realtà fasullo, di subculture ed estremismi individuali e di gruppo. È un modo per neutralizzare la questione e allontanarla da sé. Il razzismo è invece una forte dimensione sociale, tanto che oggi è possibile parlare di razzismo istituzionale con riguardo alle leggi e ai regolamenti che differenziano i diritti e le opportunità fra i cittadini autoctoni e gli altri. Si pensi alla vessatoria e irrazionale normativa sull'immigrazione e sui permessi di soggiorno, al sistema dei centri di identificazione ed espulsione, all'anacronistica legge sulla cittadinanza. Quanto al sessismo, Rivera mette in risalto le forti analogie con il razzismo, per la stessa dinamica di potere che li caratterizza. Nell'uno e nell'altro caso esiste un noi, la società dei bianchi autoctoni in un caso, il genere maschile dominante nell'altro, che è in grado di definire se stesso come universale, e gli altri come casi particolari, differenziando anche qui diritti e opportunità, sia sul piano normativo, sia sul piano della concreta dinamica sociale. Si pensi al suffragio universale, negato fino a pochi decenni fa per escludere le donne, o alle mille forme di esclusione, sottomissione e privazione del genere femminile tuttora in atto nella società, o si pensi ancora all'omofobia. Rivera rimarca come in entrambi i casi razzismo e sessismo prevalga un dispositivo ideologico che consente ai dominatori di naturalizzare gli altri, cioè di spiegare e giustificare certi fatti sociali come se fossero fenomeni naturali e perciò immutabili, scontati, ovvi. La grande novità della visione di Rivera, dicevamo, è l'esplicita indicazione dello specismo come altra forma di discriminazione e di gestione del potere nella nostra società, secondo una medesima logica di gerarchizzazione che punta a mantenere lo status quo. Anna Maria Rivera cita Claude Lévi-Strauss, che in un passaggio teorico fondamentale si sofferma sulla divaricazione fra umano e animale, una separazione tutta ideologica, tesa a svalorizzare la condizione animale, a escluderne fittiziamente l'uomo. Per Lévi-Strauss è attraverso questo passaggio, attraverso cioè questa radicale quanto artificiale separazione fra umano e animale, che è cominciato quel ciclo maledetto che sarebbe stato la base per escludere dalla sfera dell'umanità un gruppo umano dopo l'altro e per circoscrivere la nozione di umanità a gruppi sempre più ristretti. È una chiave di lettura che ci pare importante e che spiega perché abbiamo chiesto ad Anna Maria Rivera di collaborare con Restiamo Animali. Ora vi proponiamo un brano di La Bella, la Bestia e l'Umano, preso da un paragrafo intitolato La metafora zoologica. Tanto il sessismo quanto il razzismo coloniale e l'antisemitismo presentano ricchi cataloghi di stereotipi e immagini degradanti, in particolare di metafore zoologiche. Sono repertori latenti, ma sempre disponibili per essere riesumati, attualizzati, riutilizzati nei processi di deumanizzazione degli altri e delle altre. Si pensi a quanto sia consueta, insistente e diffusa da una parte all'altra del pianeta l'immagine della donna come cagna, cioè come essere dalla sessualità animalesca indomabile. E si consideri uno dei postulati razzisti più trasparenti contenuti nella Rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci del 2001. Orinano dei battisteri, si moltiplicano come topi. La metafora dei topi, in tal caso usata a proposito della categoria, indistinta e abusiva di immigrati musulmani, è spesso presente nel fraseggio leghista. Nel 2008 Matteo Salvini, deputato della Lega Nord, noto per aver proposto l'apartheid in metropolitana, ebbe a dire che i topi sono più facili da debellare degli zingari perché sono più piccoli. A istituire analogie e continuità fra specismo, sessismo e razzismo v'è un altro dispositivo comune, la tendenza a negare a coloro che appartengono a gruppi alterizzati, che siano specie animali, donne, collettività di estranei, ogni individualità, singolarità, soggettività. Chi è oggetto di categorizzazioni omologanti o squalificanti, per lo più non è percepito in quanto individuo singolare e soggetto. Quando è colto individualmente, viene considerato nient'altro che come un esemplare tipico e intercambiabile di un'entità collettiva omogenea. L'animalità, il sesso, la razza, l'etnia, la cultura. In ogni caso utile ad affermare, per contrasto, l'identità del noi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tutti. Oggi vi insegno a fare i cookies, quei golosissimi biscotti americani al cioccolato e noccioline. Premetto, non è una ricetta dietetica. Detto questo, non vi farà dimagrire, ma sicuramente è un cookie più sano di quelli comperi, perché contiene solo grassi buoni, quelli dell'olio, delle noccioline e del cioccolato fondente, e soprattutto nessun ingrediente di origine animale. Gli ingredienti sono 250 g di farina, 100 g di zucchero di canna, una manciata di fiocchi d'avena, 2 cucchiai abbondanti di crema d'arachidi, 50 g di olio di semi, un cucchiaino di bicarbonato, 4 o 5 cucchiai di latte di riso, 50 g di arachidi sgusciate non salate, 100 g di cioccolato fondente. Per prima cosa sgusciate le arachidi e tritatele un po'. Tagliate a tocchetti anche la cioccolata fondente, resistete e non mangiatela tutta. In una ciotola mescolate insieme la farina, lo zucchero, il bicarbonato e i fiocchi d'avena. In un'altra invece amalgamate insieme l'olio con la crema d'arachidi. Ora aggiungete poco alla volta gli ingredienti liquidi ai solidi, mescolando, e poco latte alla volta, sino ad ottenere un composto sodo ed elastico. Impastate per qualche minuto, aggiungete le arachidi e la cioccolata e continuate ad impastare finché tutti gli ingredienti non siano ben amalgamati. Formate delle palline grosse circa come noci, appiattitele leggermente con il palmo della mano e disponetele su una teglia da forno. Cuocete i biscotti in forno ben caldo a 180 gradi per 15 minuti circa. Trascorso questo tempo, toglieteli dal forno anche se vi sembrano ancora troppo morbidi, perché raffreddandosi si solidificheranno. La loro morte è accompagnarli con una tazzona enorme di caffè d'orzo o di latte vegetale caldo. Ciao, alla prossima! L'ufficio del sindaco di Atene ha confermato che il cane Ruby, insieme al suo amico Nelly, sono stati rimessi in libertà e quindi possono adesso scorrazzare tranquillamente nelle strade vicino al Ministero delle Finanze nella città di Atene. Ruby e Nelly sono due dei tanti cani di strada che vivono nelle vie centrali di Atene ed erano stati catturati dalla Calappiacani municipale qualche settimana fa, dopo che alcuni cittadini si erano lamentati della loro aggressività e del fatto di essere stati morsi dai due cani. Il caso aveva attirato l'attenzione dei media, dei blog e delle associazioni per il benessere degli animali, perché Ruby era stato soprannominato il cane anti-austerity, dal momento che era solito abbaiare la sua protesta quando rappresentanti della Troica hanno visitato il ministro della Finanza all'inizio del mese di marzo. D'altra parte, i padroni dei negozi, i volontari e anche i cittadini che sono soliti dar da mangiare ai cani di strada e anche quindi a Ruby e Nelly hanno sempre detto che non hanno mai notato un'aggressività di questi cani, quindi normalmente questi due cani dovrebbero essere molto tranquilli a detta di chi li conosce. Ruby e Nelly sono quindi stati tenuti sotto osservazione nel canile municipale di Megara, a circa 50 km da Atene, e poi è stato deciso di liberarli perché non si è visto nessun atteggiamento di ostilità. Una volta passato questo periodo di osservazione, quindi i cani sono stati rimessi nel territorio. Quindi la cosa particolare è proprio che un cane apparentemente molto buono era stato catturato soltanto per il suo modo politicamente non corretto di annusare le misure di austerità in arrivo e allertare quindi la gente al passaggio dei rappresentanti dell'Unione Europea, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale. Diciamo che in molte città, anche nel sud Italia, la presenza dei cani randagi è una cosa abbastanza comune, tanto che in alcuni casi diventano proprio dei veri cani di quartiere che la cittadinanza non solo tollera, ma di cui appunto si prende cura, portando cibo, portando le cure dove necessario e in alcuni casi anche soffrendone molto per la scomparsa. Che dire, speriamo che dopo questo clamore suscitato per questo particolare fiuto del cane, Ruby possa trovare finalmente una casa e non si debba più preoccupare di doversi inventare capacità d'assalto in banco per attirare l'attenzione. E speriamo che l'abbiano sterilizzato prima di rimetterlo nel territorio, se ancora non lo fosse già stato. Ultime notizie da Colleferro, la collina degli orrori. Vorremmo che fossero buone notizie quelle riguardanti lo stato degli animali a Colleferro, in provincia di Roma, un caso di maltrattamento di cavalli, muli e asini, in buona parte già sequestrati, del quale abbiamo già parlato alcune settimane fa grazie ad Italian Horse Protection, che ne ha avuti alcuni in affidamento. Purtroppo le adozioni e il sequestro di circa 100 animali, tra quelli ancora da assegnare e quelli ancora da sequestrare tra i comuni di Colleferro, Segni, Valmontone e Paliano, sono bloccati. Intanto, mentre migliorano le condizioni di molti animali soccorsi e assistiti, alcuni purtroppo sono morti a causa del grave stato di denutrizione e malattia in cui versavano da tempo. Sono esclusivamente le associazioni Italian Horse Protection, Rifugio degli Asinelli ed EMPA, con la collaborazione di The Donkey Sanctuary, a sostenere le spese per il trasporto, le cure mediche e il nutrimento degli animali, grazie anche alle donazioni, tante ma non sufficienti, di comuni cittadini. Si aggiungono inoltre le spese della custodia giudiziaria degli animali ricoverati, per l'uso dei terreni, dei macchinari e per il personale dedicato. Nessun aiuto economico è arrivato dalle istituzioni. Le associazioni stanno facendo pressione per accelerare le procedure di adozione e poter dunque occuparsi dei cavalli ancora da sequestrare, che versano in condizioni pietose, mentre il proprietario dei terreni continua imperterrito a maltrattare gli animali e a intimidire gli abitanti della zona. Hanno lanciato un appello al nuovo governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, chiedendogli di intervenire per accelerare i tempi delle operazioni di adozione e sequestro e prendere adeguati provvedimenti contro i responsabili di tanto orrore. Sul sito www.horseprotection.it trovate il testo dell'appello e come inviare una donazione. Per finire una segnalazione importante, questo è il periodo dei rospi alle prese con difficili attraversamenti stradali in un periodo per loro delicato, quello della riproduzione. Il WWF, fra gli altri, sta organizzando delle squadre di volontari per aiutarli a compiere questo passaggio molto pericoloso. Chi vuole partecipare può telefonare a Carlo 338 399 4177. Naturalmente vi invitiamo a visitare il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com per tutte le informazioni e gli approfondimenti sulle notizie di questa e delle altre puntate, oltre che per scaricare il podcast delle puntate precedenti. Vi diamo appuntamento a giovedì mattina alle 9.55 per la puntata breve di Restiamo Animali con replica alle 16.05 e a domenica prossima per la puntata lunga di mezz'ora. E non dimenticate di seguirci su Twitter. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.